forza, 8-30 nodi, sbarco, calco Lampedusa. Italia, unica mia fuga, no, non porto droga. La mia pelle è scura, nuda, suda, recito un'altra sura, sarò clandestino, questa è la mia accusa. Noto contro il mare che m'affoga, mi soggioga, voga, grido, voga, voga. Vedo terra proda, grido all'Akbar nella foga. Ho lasciato tutto, mia famiglia, per lavoro qua in Italia. Nascosto nel rimorchio di un camion, vado su a Milano, autostrada sporco Baccanon. Arrivo in Viale Jenner, finalmente i miei fratelli musulmano. Preghiamo, rivolti alla Mecca, piango e bevo lacrime, ho la lingua secca. Ancora non ci credo d'essere salvo, muoio dalla fame, non mangio dallo sbarco, ma almeno vivo libero, anche se dormo in un parco. Sane culasti albanese de merda, garasoni senatur, tu rindrai nella tua terra, afferra la bandiera verde del Padang e la manifestazione giù a Milan, zero Ramadan, salta sopra il tram, brutto can. Guarda sti rumeni, saraceni, iracheni, alla stazione centrale siamo pieni. Bode legna, men, pum, pam, piri, pam, tieni, vieni. Oggi siamo in tanti in Viale Jenner, protestiamo contro questi terroristi senza i visti, stupratori, siamo superiori, non chiamateci allarmisti, ma liberatori contro gli invasori. L'ennesima crociata contro i mori, gridiamo tutti insieme, andate fuori. I cori non si placano, dilaniano, accusano, gli arabi dilagano, non pregano, si alzano, incazzano, avanzano, si incazzano. Che cazzo vuoi, son cazzi tuoi, si buscano, fermarli tu non puoi. In un attimo, tutto incontrollabile, padani, non siamo più noi. Nel mio paese c'è guerra, ma anche qua c'è pace, c'è dolce, la folla che mi spinge, mi nuoce, mi stringe alla croce. Urlo senza voce, botte sopra i denti, sputi, lamenti, reagisci, reagisci. Il fratello musulmano, mi dicono colpisci. Volevo essere libero, e perché non lo capisci? Mi sono un uomo libero, un difendo la mia piazza. Affassito zingaro, si sono una minaccia. Non faccio in tempo a dirli, a colpirlo, che un tipo mi caccia un calcio in pancia. La rissa ancora avanza, Borghezio che impazza. Ti perdi, chi sono gli ucci verdi? Non si capisce più chi lo schiur, chi invece ce la dur. Sei duci contro il mur, calci nel cul. Volevo essere libero, ma chi ho paura? Arriva l'ambulanza, no la polizia. La gente che scappa, mi schiaccia. Un agente mi prende per le braccia. Te fe, te ciapete anche me, uè. In un istante, sono sulla volante con un altro uomo arrestato sbraitante. Ha la camicia verde, un aspetto inquietante, e grida sono libero. Mi sono